l'altra Europa. 6 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia, ben ritrovati all'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale dedicato alle opportunità, alle possibilità offerte dall'Unione Europea. Come sempre vi ricordo, non nascondiamo le criticità che vengono ben narrate da Radio 24 in tutti gli spazi dedicati all'Europa. Noi il sabato cerchiamo di concentrarci su storie e persone e buone pratiche che possano essere utili anche ai cittadini, alle associazioni, agli enti, ai professionisti. E poi le giornate che portano a concentrarsi su argomenti particolari per fare anche cultura europea. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Come sempre vi ricordo anche le coordinate: euronetplus.eu, il portale che raccoglie tanti dossier in tante lingue diverse con approfondimenti, notizie e attualità, e poi social network Euronet Plus R24 o il mio personale chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook. Lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Questo è insomma un po' il libretto delle istruzioni. Come ogni settimana si parte. Destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream for the top of my lungs. Una giornata internazionale contro la violenza sulle sui sex workers, un tema importante, un tema a cui è stato dedicato anche un progetto europeo che si è concluso un paio d'anni fa. Indurxlinetaproject.eu per conoscerlo meglio, per capire qual è la problematica, quali sono i contorni della problematica in questione, c'è con noi Licia Brussa, fondatrice di TAMPEP, e sentiamo da lei di cosa si tratta, che cos'è questa rete europea per la prevenzione dell'HIV e non solo. Buongiorno Licia. Buongiorno. Ben ritrovata qui all'Altra Europa, ciao. Grazie. Allora, ricordiamo chi sono i e le sex workers. Sono cittadini e cittadine che per scelta o per circostanze della vita lavorano fornendo servizi di carattere sessuale, che possono avere differenti luoghi, differenti forme e differenti caratteristiche. Le nazionalità sono anche un fenomeno molto internazionalizzato da molti anni, e le nazionalità sono diverse e le condizioni di lavoro e di vita sono anche molto diverse. Ma esiste una legislazione europea o esistono tante legislazioni europee? Esistono tantissime legislazioni europee, ci sono delle direttive europee, ma nell'ambito delle leggi sulla prostituzione rimane come competenza nazionale, quindi il Parlamento europeo non può intervenire su quello che riguarda la legislazione in sé sulla prostituzione. Quello che è una direttiva europea che ha un potere anche legislativo sono le leggi e le misure contro la tratta delle persone. Certo. Incluso quello contro la tratta per finalità di prostituzione. Licia, quali sono qual è il significato di una giornata di questo tipo e soprattutto quali sono le richieste avanzate da TAMPEP? Questa giornata innanzitutto è nata nel 2003, è nata negli Stati Uniti da organizzazione delle prostitute e delle lavoratrici sessuali, è stata creata per richiamare l'attenzione della società sui crimini dettati dall'odio contro le lavoratrici e lavoratori sessuali e per commemorare le vittime di violenza. E sempre più diventata appunto internazionale e anche è una giornata di denuncia delle politiche che mettono in situazioni di insicurezza e precarietà le sex workers e i sex workers. E quindi una giornata contro la violenza e anche una giornata per ricordare che tutte le forme di politiche, di interventi polizieschi che mettono le lavoratrici del sesso in una posizione di vulnerabilità, significa automaticamente esporle in modo molto più forte, molto più rilevante a vari crimini e a varie forme di violenza. Licia, poco fa citavo questo progetto europeo che si è concluso, se non erro, nel 2012. Qual era l'obiettivo e quali risultati sono stati raggiunti? Quello che è importantissimo, quello che è il lavoro della nostra rete, è di sviluppare interventi specifici indirizzati all'empowerment, al rafforzamento della situazione delle prostitute migranti e di osservare il fenomeno per poi dare delle indicazioni politiche. Il progetto, abbiamo sviluppato vari progetti, quello grande di rete che ancora è attivo in realtà, che viene implementato in 26 paesi in Europa, proprio quello delle buone pratiche, di come si può intervenire per creare una rete di aiuto e di appoggio e come si può intervenire anche nelle politiche portando le prove di come le politiche sono spesso controproducenti per quello che riguarda gli interessi delle persone, la prostituzione, ma anche quello della società in generale, perché quando non si rispetti i diritti umani e civili di un gruppo di cittadini e cittadine significa che le conseguenze poi sono anche per altri. Certo. Però il progetto di Indora, ad esempio, che abbiamo chiuso in realtà nel 2014, che è durato più di 6 anni, era un progetto specifico per entrare e sviluppare degli interventi per i luoghi chiusi della prostituzione, che sono molto diversi in Europa, hanno delle caratteristiche diverse, appartamenti, club, vetrine in Olanda, varie forme, però una prostituzione al chiuso è sempre difficilmente raggiungibile e abbiamo sviluppato questo progetto anche per capire quali sono proprio le esperienze specifiche di violenza e perché le lavoratrici del sesso, soprattutto le lavoratrici del sesso migranti, non possono, quando sono vittime di violenza, non sono nella situazione di rivolgersi alla polizia, alle autorità pubbliche per chiedere protezione o per avanzare delle pratiche giuridiche di denuncia contro i loro chi li ha assalite o violentate o addirittura appunto messe in una condizione di danni, grossi danni fisici, di attacco fisico. Questo proprio a causa anche delle leggi, spesso, quindi sia la situazione di essere isolate, l'isolamento provoca una difficoltà a capire e a mettere in moto dei meccanismi di protezione, certo, verso i clienti violenti, ad esempio, però anche appunto le leggi, perché una volta che i clienti sono criminalizzati, che le prostitute sono criminalizzate, chiaramente si ha molta paura di rivolgersi alla polizia. E questo è quello che viene denunciato durante questa giornata, è che seguendo anche le linee guida di Amnesty International recentemente pubblicate e delle Nazioni Unite e delle nostre reti, di nostre parti, della società civile, si chiede di decriminalizzare molti aspetti legati al lavoro sessuale quando è fatto in forma indipendente e chiaramente non certo, non con sfruttamento, esatto. Grazie davvero, Licia. E ricordiamo il sito internet per tutte le informazioni, che è tampep.eu. Lì si possono appunto trovare tutte le coordinate, sia per contattare l'associazione sia per conoscere meglio tutte le azioni in atto. Grazie, buon sabato, Licia. Grazie, arrivederci. Noi ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Scambio culturale in Croazia su musica ed inclusione sociale. Ami la musica e sei alla ricerca di un'esperienza all'estero? L'associazione Vagabonda cerca partecipanti per uno scambio culturale su musica ed inclusione sociale. I candidati dovranno avere tra i 18 e i 30 anni e un buon livello di inglese. Sede dello scambio sarà la città di Rijeka, in Croazia, dove 30 giovani da tutta Europa si troveranno dal 3 al 9 marzo per il progetto di training course Music Makes Feelings, che ha come obiettivi principali l'utilizzo della musica per il benessere personale, l'inclusione sociale e l'integrazione. Iscrizioni entro l'8 gennaio 2017. Tutte le informazioni sulla pagina Scambio Culturale in Croazia del sito scambieuropei.it. L'altra Europa. 605 milioni destinati a 314 ricercatori eccellenti sono alcuni dei numeri di HERC, le sovvenzioni di consolidamento che sono state assegnate questa settimana dal Consiglio Europeo della Ricerca, numeri importanti sia in termini di cifre sia in termini di ricercatori che grazie a questi fondi potranno continuare le proprie attività. E anche l'Italia ne è uscita molto bene, soprattutto per quanto riguarda le ricercatrici. Ne parliamo con Massimo Gaudina, responsabile della comunicazione per il Consiglio Europeo della Ricerca. Buongiorno Massimo, ciao e ben ritrovato qui all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti da Bruxelles. E in tutte le tappe, appunto, delle sovvenzioni ERC, che sono delle grandi bombole d'ossigeno, no? Perché insomma sono veramente un incentivo, però sono anche una certificazione di quanto la ricerca europea stia funzionando. Qual è il significato di questa tappa? Beh, sono delle borse che cambiano drasticamente la carriera di quelli che le vincono, sia perché sono molto sostanziose, si parla di 1 o 2 milioni di euro a vincitore, sia per la completa indipendenza anche scientifica che queste comportano, perché chi vince ha poi la libertà massima di utilizzare questi fondi per raggiungere i risultati sperati e soprattutto per assumere giovani ricercatori. Quindi per ogni vincitore poi ci sono 7-8 persone in più che lavorano in questi progetti, quindi è una boccata d'ossigeno per chi vince, ma è anche un'opportunità in più per tanti giovani ricercatori che possono partecipare ai progetti che vincono. Quindi è un'azione molto apprezzata dai ricercatori di tutta Europa. E 38 vincitori sono italiani sui 314, la seconda nazionalità dopo la Germania, sono 50 i tedeschi, però per quanto riguarda le ricercatrici donne, l'Italia è al primo posto, credo sia un risultato significativo anche questo. È un risultato molto, molto interessante, che conferma due cose. Conferma intanto che gli italiani sono eccellenti quando si parla di ricerca scientifica, che poi si siano collocati in Italia o all'estero, questo magari se ne può parlare, però il fatto che gli italiani formati in Italia e di nazionalità italiana siano sempre nei primissimi posti nel continente è una conferma che i talenti italiani ci sono e l'Europa li premia. La seconda cosa che bisogna sottolineare è che questa eccellenza viene verificata e viene evidenziata soprattutto una volta che si supera la fase iniziale della carriera. Quando parliamo di giovani ricercatori è sempre difficile anche per gli italiani riuscire ad affermarsi. Questo bando di cui parliamo adesso riguarda i ricercatori di metà carriera, quelli che hanno fra i 35 e i 40 anni, per questo si chiamano bandi consolidator, di consolidamento. E il fatto che gli italiani siano al secondo posto in Europa in questo bando significa ancora una volta che una volta superata la fase iniziale, il collo di bottiglia dell'inizio della carriera, che è molto selettivo, poi a questa fascia di 35-40 anni invece l'eccellenza viene premiata. E in particolare, come hai detto tu, questo vale per le donne, perché su una novantina di ricercatrici premiate in questo bando la nazionalità al primo posto è proprio quella delle italiane. Quindi le italiane con 11 borse sono davanti alle tedesche che ne hanno 8, alle francesi che ne hanno 7, alle britanniche che ne hanno 7, eccetera. Il che conferma anche questo, che una volta superati gli scogli iniziali, chi riesce a entrare in una carriera di alto livello diventa veramente di altissimo livello. Massimo, cosa finanzia l'Europa, l'ERC? Cioè, nel senso, ci sono direttive, ci sono direzioni privilegiate, si cerca di finanziare progetti con ricadute nella nostra quotidianità o con ricadute veloci, quindi si cerca comunque di ottimizzare quei progetti che possono portare frutti in tempi brevi, o c'è una lungimiranza altra, quindi si punta di più sulla ricerca pura. Ci sono delle direzioni precise o si riesce a mixare tutte queste che sono le varie facce della ricerca e della scienza? Sì, diciamo che l'Europa sta gestendo e ha lanciato questo grande programma quadro che si chiama Orizzonte 2020, che rappresenta, come dici tu, un mix fra diversi obiettivi. Ci sono tre pilastri: uno va alla ricerca industriale, un altro va ad affrontare le sfide prioritarie della società come i cambiamenti climatici o come le sfide demografiche, e poi c'è il pilastro di cui fa parte l'ERC, che è quello che si rivolge alla ricerca di base, o quella che si chiama anche ricerca di frontiera. Sì. E cioè, in questo caso per l'ERC vale il principio del lungo periodo, sono investimenti in tutte le discipline scientifiche, quindi non ci sono priorità tematiche, ma si tratta di investimenti per i migliori ricercatori, quindi per l'eccellenza scientifica dei ricercatori e delle ricercatrici di tutte le discipline scientifiche, comprese quelle umanistiche, comprese le scienze sociali e naturalmente le scienze della vita, la medicina, l'ingegneria, la fisica. Quindi tutti i settori scientifici partecipano, proprio perché l'obiettivo di questo programma è di rafforzare l'eccellenza della ricerca di base e quindi di permettere ai ricercatori di avere delle opportunità forti per fare le loro ricerche, per non lasciare l'Europa o magari per ritornare in Europa per chi l'ha lasciata in futuro. Quindi non è un programma che vuole risolvere i problemi di tutta la ricerca europea, ma è un programma che vuole premiare l'eccellenza e vuole segnare un esempio anche per i paesi che dovrebbero, si augura, seguire questo esempio di meritocrazia, di eccellenza e di programma aperto a tutte le discipline. Quindi non priorità tematiche, ma porte aperte a tutti per le migliori idee innovative, ma ovviamente solo le migliori e solo i migliori ricercatori saranno poi selezionati. Grazie davvero Massimo, come sempre. Prego. Posso aggiungere una cosa? Non parliamo di ricerca completamente scollegata poi dalle ricadute quotidiane, perché tra i progetti finanziati in questa tornata, per esempio, ce ne sono moltissimi che si spera abbiano delle ricadute positive, e ci sono degli esempi nel campo della lotta alle malattie neurodegenerative come l'Alzheimer o il Parkinson. Ci sono delle ricerche su nuovi medicinali per combattere il cancro del colon retto, ci sono studi per affrontare con nuove terapie la sindrome di Down. Insomma, si tratta di una ricerca di base che però, soprattutto in campo medico, si spera che abbia anche delle applicazioni pratiche. Questo evidentemente va sottolineato. Grazie vero Massimo per le tue parole, come sempre. Un grazie anche a tutti i ricercatori, alla loro passione, alle loro competenze, che alla fine sono davvero una colonna di questa nostra Europa. erc.europa.eu per tutte le informazioni. Ciao Massimo, buon sabato. Grazie a voi. Europost-it. Training course in Francia sulla mobilità giovanile europea. Sei interessato alla mobilità giovanile e al suo impatto sulle nuove generazioni europee? L'associazione Histoire de Savoir organizza a Marchienne, nel nord della Francia, il corso di formazione Stand Up for Your Mobility. Per una settimana, dal 18 al 26 marzo, giovani provenienti da 17 paesi si confronteranno su temi di attualità e politiche che hanno influenzato l'Europa negli ultimi anni. Trasporto, vitto e alloggio saranno finanziati dal programma Erasmus+. Le candidature dovranno essere inviate entro il 9 gennaio 2017, seguendo le modalità di partecipazione indicate dal sito scambieuropei.info. di 10 chilometri, denominata Percorsi della Memoria sui luoghi del Vajont, a cui hanno partecipato ragazzi disabili provenienti da Romania, Polonia, Croazia, Italia. È una delle immagini, uno dei momenti più significativi di uno scambio che si è tenuto a Belluno nell'ambito di Erasmus Plus, Sport e Heart Ability. Questo è il nome del progetto per il superamento delle barriere, un progetto ideato e organizzato dal Centro Studi del Centro di Servizio per il Volontariato. C'è con noi Francesca Valente, che è la responsabile dell'ufficio per la provincia di Belluno. Buongiorno Francesca, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Cosa avete combinato? Abbiamo combinato una cosa bellissima, nel senso che siamo stati in grado di far arrivare 32 ragazzi da ben 4 paesi europei, un bel gruppo dall'Italia più Croazia, Romania e Polonia, e ci siamo incontrati qui a Belluno. Ma la cosa più bella è stata non tanto di condividere un territorio e di condividere buone pratiche, buone teorie sull'integrazione sociale, ma è stata soprattutto quella di essere riusciti a dialogare tra di noi, tante volte anche senza l'uso dell'inglese, perché la caratteristica di questo scambio è stata di avvicinare dei giovani che avevano delle disabilità di tipo fisico o sensoriale, sì. Quindi avevamo ragazzi in carrozzina, ragazzi sordomuti o muti, e la cosa proprio più bella, più significativa è stata poter parlare tra di noi attraverso il linguaggio dei segni, che ha superato addirittura il limite della lingua, perché la lingua comune era l'inglese, ma nel nostro caso abbiamo imparato quei 4 gesti che ci bastavano per poter dialogare tra di noi e superare superare la disabilità e arrivare proprio a parlare come non ci fossero barriere. E questo è stato il messaggio più importante che abbiamo dato e ricevuto da questi giovani. Mm-hmm. Sport e arte al centro di questo scambio. Prima citavo questa, esatto, pedonata sui luoghi del Vajont, che insomma un luogo significativo, e ancora più significativo credo sia esserci andati con queste ragazze e questi ragazzi. Assolutamente sì, anche perché come voi saprete, insomma, il Vajont ha segnato un pochino la storia della nostra provincia, è stata un'immane tragedia del 1963, e comunque grazie a questi comitati che sono nati negli anni per valorizzare la memoria e per comunque trasmettere dei messaggi positivi nel dramma del messaggio e del ricordo che è legato a questo nome, c'è anche proprio questa pedonata che si articola in diversi percorsi. Quello più breve, diciamo così, che non è proprio brevissimo ma che conta 10 chilometri, è stato attrezzato anche per accogliere le persone che hanno delle disabilità, e quindi noi siamo stati in grado durante questo scambio che si è svolto a fine settembre di accompagnare questi ragazzi e di spingerli anche sulle loro carrozzine, e quindi hanno potuto prendere parte a questa iniziativa che si ripete negli anni a fine settembre, e loro sono stati assolutamente entusiasti di vedere, di conoscere anche questo lato appunto positivo di questo dramma della nostra provincia. È stato realizzato anche un video, vero, che credo sia, adesso non ho il link, mi sono accorto di il video, sì, tranquillo, il video lo si può trovare tranquillamente nel nostro canale YouTube che si chiama CS Vlog Belluno, sì. Comunque se non lo trovate o ci cercate su Facebook oppure attraverso il sito internet, e lo potete vedere perché è proprio uno degli ultimi che abbiamo caricato, che riassume oltre alla pedonata anche il flash mob che abbiamo fatto in Piazza dei Martiri e tutte le varie attività laboratoriali che ci sono state durante la settimana. Perfetto, csvbelluno.it. Un grazie a Francesca Valente, buon sabato. Grazie a tutti. Noi ci fermiamo, la pubblicità, poi torniamo subito dopo con l'altra. L'altra Europa. His courtship has just begun. Said, young man, have you hoped some more? But I tried and I tried and I tried in vain. But I don't believe I breathe one day. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa, @ Federico Taddia, Twitter e Facebook per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. In questo momento ho un volantino in mano, un volantino che dice: attenzione nishimesi, ci sono milioni di euro per le strade rurali. Un volantino informativo, un volantino molto semplice, un volantino scritto da un cittadino qualunque. Questo cittadino qualunque si chiama Giuseppe Maida, è un professore di ginnastica e a dorso di un'asina ha attraversato le campagne del suo comune per informare gli agricoltori. Giuseppe, è andata così? Sì, è andata così, è andata bene perché ha penetrato le coscienze e ha aggiornato gli agricoltori e le aziende agricole. Chi te l'ha fatto fare? Cos'è che ti ha spinto appunto a salire su quest'asina e andare a parlare con i contadini del territorio? No, non è che è un discorso di senso civico, di partecipazione. Noi non ne possiamo più di lamentele, no? Di abbandono, di trascuratezza. Ho solo voluto sensibilizzare con questa azione molto forte, simbolica, per non ritornare di nuovo a quadrupedi, per andare in campagna, perché i nostri agricoltori, le nostre terre non sono servite ormai dopo tanti anni da strade interpoderali efficienti. Siamo abbandonati, ma non siamo abbandonati perché lo vogliamo, ma perché chi dirige, chi ha la responsabilità di divulgare questa grande volume di milioni di euro della comunità europea, voi pensate che noi abbiamo, restituiamo qui in Sicilia circa il 90% dei fondi europei. Mm-hmm. Quindi ho voluto sensibilizzare i miei concittadini, che sono tutti, quasi tutti agricoltori con carciofeti, serricoltura ed altro, ortaggi, e dire che privatamente con i propri professionisti e il pubblico, il comune, i comuni vicinori. Voi pensate che io ho avvisato quasi tutti i comuni della zona, sono stato ricevuto dai vari sindaci di Gela, di Caltagirone, di Mazzarino e altri. Ora dovrò andare a Vittoria per sensibilizzare i nostri amministratori affinché possano concretizzare con i rispettivi uffici i finanziamenti e avere una viabilità molto più efficiente. Infatti c'è questo bando, un bando pubblico dell'Unione Europea sulla viabilità interaziendale, strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali. Tu di fatto hai girato tra i contadini della zona per dire: bussate alle porte degli assessorati, chiedete ai vostri tecnici di fiducia, ci sono le associazioni, insomma datevi una mossa per raccogliere informazioni, perché entro il 20 febbraio si possono presentare questi progetti, e quindi insomma mettetevi in gioco. Qual è stata la reazione, Giuseppe, di questi contadini? Una reazione immensa, perché mi conoscono per altre battaglie, no? Per la salute pubblica, contro il MUOS, perché qua viviamo una situazione un po' drammatica di tante, e l'ho fatta da 15 anni che sono in trincea, ho ricevuto anche querele, ma non vanno a affievolire la mia determinazione. Gli agricoltori e le associazioni agricole l'hanno accettato alla grande, ho ricevuto tanta solidarietà e tanta collaborazione, perché ho aperto gli occhi a queste persone e ho detto: mettetevi assieme riguardo le aziende, no? Iniziamo un percorso di comunione, di associazione, per poter fruire di questi grandi finanziamenti, perché ce ne sono tanti. Io sono contrario a coloro che vogliono che i finanziamenti vadano o a certe aziende o a certi amici. Io sono contrario, mi ribello a questo, sono indignato del fatto che qualcuno lo comunichi alle solite persone o alle aziende più grandi e gli altri rimangono dietro. Sono io indignato. È una reazione civile, pacifica e provocatoria. E lenta, perché appunto tutto ciò a bordo di una appunto a bordo Giugiu. Benissimo anche dagli agricoltori, perché si sono fatti trovare vicino alle aziende con il fieno, una cosa eccezionale. Io ho avuto un riscontro bellissimo, perché ripeto, mi conoscono su YouTube, potete anche verificare. Perfetto. Ho affrontato tante altre cose, però noi non vogliamo rimanere indietro, io fra l'altro non faccio politica e non ho nemmeno il minimo interesse di propormi, me lo dicono tutti, ma lo faccio a spese della mia famiglia e col sacrificio del mio tempo libero per concretizzare ciò. Giuseppe Maida, l'altra Europa, grazie. Io vi ringrazio a tutti, un abbraccio, vi auguro tanto bene e buone feste. Ricambiamo, buon sabato. A nome di Nicenesi, eh? Certo. Grazie per l'attenzione. Europosted. Stage in giornalismo e comunicazione a Euradio Nantes. Ti piacerebbe fare un'esperienza di lavoro internazionale in un ambiente giovane, creativo, ma anche istituzionale di prestigio? Euradio Nantes, emittente radiofonica supportata dalla Commissione europea, con sede a Nantes, offre l'occasione che stai cercando, perché è alla ricerca di tirocinanti. La selezione è aperta a tutti i cittadini europei che abbiano un'ottima conoscenza della lingua francese e abbiano compiuto studi in ambito giornalistico, delle scienze politiche o in materie europee. Il tirocinio durerà 5 mesi da febbraio a luglio 2017 e prevederà un rimborso spese di circa 500 euro mensili. Tutte le informazioni sul sito euradionantes.eu. Domani, 18 dicembre, è la giornata internazionale del migrante. Anche noi cerchiamo di portare il nostro contributo e lo facciamo insieme a un fotografo che da anni dedica la sua attività professionale ai profughi, ai superstiti, ai naufragi, che cerca di narrare attraverso le immagini. E una sua mostra si è appena conclusa a Biblioteca del Senato, un'altra invece è tuttora in corso, si intitola Oltre i confini, presso la Casa a Colori a Padova. Diamo il benvenuto a Francesco Malavolta. Buongiorno Francesco, benvenuto all'Altra Europa. Sì, buongiorno a te Federico, buongiorno Radio 24. Beh, detto bene, l'altra Europa, ci sarebbe bisogno di un'altra Europa, non quella sicuramente dei muri degli ultimi anni. Non quella dei muri, è un'altra Europa, sì, che probabilmente tu intravedi negli occhi dei migranti, dei rifugiati, di chi è alla ricerca di un qualcosa e insomma questo qualcosa probabilmente lo capti, lo raccogli, lo catturi con la tua macchina fotografica. Sì, sicuramente all'interno di come è stato chiamato un file, che poi in realtà si raccontano storie di persone, spesso si parla di numeri, ma in realtà dietro ci stanno delle persone, ogni persona comunque ha una storia completamente diversa, in quei volti, in quegli occhi c'è la speranza di cambiare vita, di non sopravvivere più, di non scappare da morte, dittature, fame, ma cercare in qualcosa di diverso, quindi non più la sopravvivenza ma quello di vivere. Parlavamo dell'altra Europa, proprio stamattina leggevo che per il muro di Calais sono stati spesi quasi 3 milioni di euro. Basta pensare cosa si potrebbe fare con 3 milioni di euro in quell'area, visto che il numero dei rifugiati in quella zona non toccava i 10.000, le 10.000 persone. Francesco, quindi, tu hai veramente fotografato centinaia, migliaia di volti, che ricordiamo sono persone, sono storie. C'è qualcosa che ancora ti emoziona, qualcosa che ancora ti sorprende, qualcosa che ancora ti stupisce? Come c'è questo filtro che è la macchina fotografica, no? tra te e queste storie, però poi cosa c'è al di là dell'occhio? Beh, sicuramente dopo aver lavorato, perché comunque lì si va per un committente, il committente decide di investire tutto su di te, comunque la tanta esperienza, sono quasi 20 anni, 10 interrottamente, ti porta a creare delle barriere che poi comunque, messa la macchina fotografica all'interno dello zaino, spariscono e ritorno un po' quei volti, le loro storie, storie completamente diverse l'una dall'altra, anche chi viene da paese come considerati non guerra, esistono delle dittature così sottili che comunque non fanno altro che costringere queste persone a scappare. Sicuramente non ti abitui al dolore, non ti abitui alle morte, non ti abitui a quegli occhi, a quelle sofferenze che comunque anche chi arriva in silenzio ti trasmette semplicemente con lo sguardo. Francesco, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo perché il clock ci obbliga alle informazioni, per fortuna che ci sono queste informazioni utilissime per chi sta viaggiando, le informazioni del traffico, e poi torniamo immediatamente da Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, eccoci qua ancora con Francesco Malavolta. Francesco, dacci un'immagine, dai. C'è una fotografia che tu malgrado ti porti sempre comunque con te. Ce n'è una abbastanza anche recente, un po' che non definisco una di quelle foto estetiche, perché poi le foto di chi fa giornalismo, fotogiornalismo, non devono essere belle, ma devono raccontare. Ce n'è una in particolare fatta lo scorso anno sull'isola di Lesbo, dove ho notato una giovane mamma siriana che stava togliendo il giubbotto di salvataggio alla sua bimba. Fin qua nulla di anormale, poi accorgendomi che quel giubbotto di salvataggio non era altro che due cassette di polisterolo. In realtà, prima della partenza, visto il grandissimo numero di persone che partivano dalla costa turca verso le isole greche in quel periodo, la mamma, non trovando più nessun salvagente disponibile, ha deciso di costruire addosso alla propria piccola, con due cassette di polistirolo, quelle del pesce, della frutta, un probabile giubbotto di salvataggio. Queste sono delle immagini, delle scene che comunque ti portano, ti danno quella drammaticità, anche comunque quello che una madre cerca di fare per un proprio figlio. Insieme a queste immagini tante altre. Io dico sempre che la foto che non ho mai fatto è quella probabilmente delle tante urla durante la notte, durante le operazioni di salvataggio, che arrivano da gommoni, da barche completamente al buio in cerca di salvataggio. Certo. Sono quelle foto che restano all'interno della propria mente, ma che non possono essere scattate. E poi innumerevoli scatti che comunque, purtroppo, ahimè, raccontano solo esclusivamente disperazione e spessissima anche tantissima voglia di rivincita, perché il fatto di toccare terra, di essere salvati, porta a loro anche una speranza di qualcosa, come dicevamo all'inizio, di migliore, di nuovo, di vita. E quindi spessissimo si fotografa non solo quello che è la drammaticità dei loro volti, ma anche la gioia di chi ce l'ha fatta. La voglia di vita, credo che sia questo appunto. Grazie davvero a Francesco Malavolta, ricordo. Grazie ancora, francescomalavolta.com, il portale per conoscere tutta la sua attività. E io invito anche a cercarmi sui social, perché dico sempre che ho creato, tramite le pagine un po' dei social, quelli più famosi, un micro giornale dove lì possiamo mantenerci in maniera costante, aggiornate, senza comunque perdere la memoria. Grazie davvero, ciao Francesco, buon sabato. Grazie, una buona giornata, grazie. Con la musica dei Coldplay, la musica dei Coldplay ci accompagna al di là dell'oceano per questo collegamento in diretta con Cuba, con Havana Vecchia, dove è stato inaugurato il Bar Europa. Che cos'è? Lo chiediamo a Michele Gerace, organizzatore di Bar Europa, avvocato, presidente dell'Osservatorio sulle strategie europee per la crescita e l'occupazione. Ciao Michele, buon Ciao, risveglio. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che alba è oggi ad Havana, a L'Avana? Beh, oggi è un giorno di festa qui a L'Avana Vecchia, perché è la giornata che celebrano San Lazzaro. Mm-hmm. E già ieri sera c'erano grandi festeggiamenti per le strade, musica, più del solito, perché comunque è quasi una costante. Certo. Michele, che cos'è Bar Europa? Bar Europa, sentivo prima un fotografo probabilmente, sì, esatto, che stava, cercare di tornare all'Europa e dare un briciolo di umanità. È in fondo una idea di comunità, di persone che si trovano attorno a dei tavolini, a un bar, un po' in maniera differente da come si può fare in tanti anche altri modi legati al vedersi assieme a un bar, magari fare degli aperitivi a tema, no? Sì. È più proprio lo stare al bar come probabilmente lo si è stati ormai 60 anni fa, il discutere d'Europa tra persone che sono assolutamente competenti, persone che sono appassionate, che sono curiose, e soprattutto cercare di coinvolgere le persone che meno ti aspetteresti che potrebbero stare a un bar a parlare di Europa. Un'esperienza nata a Roma, un'esperienza che poi avete portato in tante altre città italiane e in tante altre città europee. Cosa significa essere a Cuba con Bar Europa? È un'esperienza straordinaria, perché effettivamente all'inizio non è immediato il collegamento. Questo è il nuovo mondo, l'Europa è il vecchio continente, e anche se Cuba è un paese pieno di europei, si potrebbe dire che è uno dei paesi più europei oltreoceano, dove sono tantissimi discendenti europei. In questo caso noi eravamo spiati alla società Dante Alighieri e quindi erano molti gli italiani, ma è incredibile la voglia che queste persone hanno di raccontare la loro storia, e soprattutto, cosa che noi molto spesso ci dimentichiamo, poteva essere una vaga idea prima di arrivare qui, ora è quasi un convincimento, per loro l'Europa è ancora qualcosa che è capace di suscitare emozioni, vanno per il ricordo, vanno per colori che ancora hanno nitidi, no? Mentre per noi in Italia, per noi in Europa, se posso avere la piccola presunzione di parlare anche per qualche amico o persona che conosco in giro per l'Europa, invece è diventata qualcosa di molto diverso e il colore è un po' sbiadito, no? È rimasta solo la fredda istituzione, a cui poi le persone reagiscono, come vediamo nei referendum. Certo. Michele, quali sono le attività che avete previsto in questi giorni? Nello specifico avete qualche come le chiamate? Riunioni, incontro, chiacchierate? No. Allora, esiste un libro fantastico di Chesterton che si chiama L'Osteria Volante. Questi sono un gruppo di irlandesi che vanno in giro con un'insegna di un'osteria su un carro, dove poggiano questo carro e scaricano l'insegna e la appoggiano, quella è l'osteria volante, no? Per loro era una piccola rivoluzione che facevano contro la finanza che incedeva, erano tempi, diciamo, insomma, agli inizi del Novecento. Per noi il Bar Europa è un'insegna, dove c'è quell'insegna e c'è un bar, ma potrei dire dove c'è quell'insegna e ci sono persone attorno, quello è un Bar Europa. Quindi non è una proposta, ma insomma, prendetela come tale se volete. Se dovessimo mai portare da voi in radio la nostra insegna in Bar Europa e se doveste poi trovarvi attorno a delle altre persone a parlare, anche in radio da voi, anche a Radio 24, potrebbe esserci un Bar Europa. Beh, insomma, è una proposta che facciamo nostra, quindi organizzeremo. Perché fosse a La Habana oggi, dove vi può trovare? Allora, oggi noi torniamo alla Società d'Arte Alighieri, ma come ospiti di un altro bel incontro che fanno con dei bimbi. Abbiamo dei momenti musicali che hanno accompagnato anche il Bar Europa, che si è tenuto lì grazie all'impegno dell'Associazione Amicizia Cuba Italia. C'è stato un momento musicale bellissimo con Monica Marziota e il quartetto della Camera Musicale Romeo, che sono solo donne che qui suonano la musica classica tutti i giorni all'interno di un luogo splendido che è la Chiesa di San Francesco. E poi ovviamente saremo a Roma il 21 dicembre nel pomeriggio, le informazioni poi sono sulla pagina Facebook. Ma okay. Tu che domandavi prima cos'è in fondo il Bar Europa, sì è l'insegna, sì sono le persone attorno, in realtà è un generatore di comunità. Siamo partiti tra persone, siamo partiti a Roma e a Roma siamo partiti con un gruppo di ragazzi bravissimi che sono i Tor più belli da Tor più bella Monaca, insomma, sì. No? E poi siamo andati avanti con l'associazione Un Mondo nel Cuore, che sono ai confini della città, addirittura loro pagano il pedaggio internamente per spostarsi, e però non volevamo essere periferici a tutti i costi, perché può essere uno snobismo al contrario, no? Il cercare a tutti i costi di essere periferici come per dimostrare qualcosa. Invece è nata in periferia per pura circostanza e si è sviluppata poi in centro verso San Lorenzo, che è un quartiere più universitario, con i ragazzi dell'Impact Hub di Roma. E in generale sta andando avanti, assieme anche a persone assolutamente qualificate che si occupano di Europa, a Marco Piantini, non so se già lo conoscete. Sì, Michele, abbiamo proprio una manciata di secondi. E in generale l'Europa è questo per noi, insomma, è quello che è stata Insomma, contaminazione, incontri, mi sembra che siano queste le parole chiave. Ricordo convivenza sociale, esatto. Umanizzazione, è stata una forma di grande elaborazione culturale e identità, che è quella che stiamo ricercando. Ti ringrazio, insegna creando. Bar Europa, per trovare la pagina Facebook di Bar Europa, e lì tutte le informazioni. Con questo saluto tutta la squadra dell'Altra Europa, ringrazio voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento come sempre è a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.